e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, eccoci pronti per una nuova puntata di Cuore e Denari, sempre in diretta dal Salone del Risparmio, edizione 2016, settima edizione. Siamo all'ala nord del MICO Milano, Milano Congressi, la vecchia fiera di Milano, in via Gatta Melata 5, vi abbiamo dato tutti i riferimenti possibili per raggiungerci, ci trovate qui negli studi di Radio 24, quindi passate a salutarci. Allora, prima informazione, la borsa oggi benino, più 0,6%, Parigi e Francoforte, Milano più 0,33%, è un po' la nostra missione di sempre, le gare i fatti di attualità, le trasformazioni della nostra società, la vita quotidiana di ciascuno e di chi ci ascolta in particolare. Allora, proprio dal Salone cerchiamo di farlo con i temi e con i numeri del risparmio. A proposito di numeri, anche quest'anno Prometeia collabora con GFK all'Osservatorio sul risparmio delle famiglie, giunto alla 20ª edizione. Verrà presentato proprio oggi qui alle 12.30 al Salone. Parliamo spesso anche da questi microfoni di mercati incerti, volatili, tassi bassi destinati a rimanerlo a lungo e anche di investimenti che sono considerati tradizionalmente sicuri ma che invece cambiano, si riposizionano, in alcuni casi smettono per il risparmiatore di essere un punto di riferimento. Di fronte a tutto questo, come cambiano le scelte del risparmiatore? Cosa spinge questi cambiamenti? Allora, all'800 24 00 24, anche questa mattina torniamo a chiedervi quali sono le scelte di risparmio che avete fatto all'interno della vostra famiglia o anche in via individuale in questo ultimo anno. Noi commenteremo queste vostre scelte, queste vostre nuove strategie nella prima parte della puntata con i nostri ospiti. Intanto saluto e ringrazio Lea Zicchino. Naturalmente abbiamo Buongiorno. Già detto appunto l'osservatorio che verrà presentato tra poco da Prometeia, che ci darà qualche anticipazione su questo osservatorio, e poi commenteremo i dati scientifici appunto elaborati da questo osservatorio con il mondo accademico. Ringrazio e saluto per essere tornata a trovarci Duccio Martelli, professore aggregato di economia degli intermediari finanziari presso l'Università di Perugia, esperto di neurofinanza ma è anche visiting professor alla Harvard University. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. In tanti casi ne abbiamo parlato tante volte, no? Nicoletta, le molte nostre scelte, volte. I nostri comportamenti in campo di risparmio dipendono anche da un certo allenamento, dalla costruzione di una forma mentis, perché spesso è proprio questione di testa. E quindi oggi, Deborah, tu ci proponi una seduta di allenamento cerebrale. D'altronde, proviamo. Il cervello è un organo straordinario, è una struttura plastica che si rimodella continuamente, quindi io non vedo l'ora di mettermi al lavoro, perché non è mai troppo tardi, ma soprattutto non bisogna fermarsi mai, perché quello che non si usa si perde. I geni sicuramente dicono la loro, ma la salute, il benessere, il buon funzionamento del cervello dipendono anche da noi, dal modo in cui approcciamo la vita, dall'atteggiamento che mettiamo nel fare le cose, dalle strategie che utilizziamo e anche dal nostro stile di vita. E proprio di stile di vita parleremo nella seconda parte della trasmissione. Oggi in tutto il mondo si celebra la giornata della salute, che è dedicata alla lotta al diabete, una malattia che negli ultimi anni ha raggiunto i numeri di una vera e propria pandemia, con altissimi costi sociali ed economici. La buona notizia è che la maggior parte dei casi di diabete di tipo 2 è prevenibile, e di prevenzione parleremo oggi. Il miglior investimento, Deborah, certo, per la nostra salute e anche per la salute del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, mentre prenotate i vostri interventi all'800 24 00 24, professor Martelli, io invito i nostri ascoltatori a fare un esercizio di memoria, e bisogna, no, stuzzicarlo un po'. E allora chiedo ai nostri amici da casa: qual è l'ultima volta che avete misurato la glicemia e su che valore viaggiavate? Il professor Martelli mi ha già fatto un segno con la mano molto eloquente. 800 24 00 24. 3 per 5 25 6 per 3 33, 2 per 8 48, 3 per 9 29. Sono numeri di una canzone, ma i numeri spesso raccontano molto delle nostre vite, delle nostre famiglie, di ciò che spinge le nostre scelte in materia di risparmio, legandosi a molte altre dimensioni. Allora, questa mattina può sembrare un tema molto ampio, ma adesso lo circoscriveremo molto rapidamente. Buongiorno e grazie di nuovo a Lea Zicchino, partner di Prometeia, responsabile della practice analisi dei mercati e degli intermediari finanziari. Ho detto correttamente la sua carica? Sì, certo. Buongiorno a tutti. Del professor Martelli ho già anticipato appunto le qualifiche poco fa. Allora, riconvoco i nostri ascoltatori. La nostra convocazione, peraltro, di stamattina riprende anche un sondaggio che abbiamo pubblicato ieri su Twitter. Ci giochiamo un po' con i nostri ascoltatori, però in realtà poi i dati rispondono, che vengono fuori, rispondono, sono sempre molto interessanti e ci raccontano molto del loro orientamento. Allora, voi pensate alla scelta di investimento, ma anche disinvestimento più importante che avete fatto nell'ultimo anno. Questa scelta è stata determinata da A, una vostra iniziativa o un progetto di vita, B, reazione ad un imprevisto, si perde il lavoro, si deve magari disinvestire un po' di risparmio accumulato in passato. Raccontatecelo o al numero verde all'800 24 00 24, oppure con un sms al 349 238 6666. Dottoressa Zicchino, però le voglio lasciare subito il campo. Alle 12.30 qui al Salone del Risparmio presenterete l'osservatorio sul risparmio delle famiglie realizzato con GFK. In quello dell'anno scorso, dati 2014, avevamo visto crescere il reddito delle famiglie per la prima volta dopo 7 anni. So già che molti ascoltatori contesteranno e non si ritroveranno in questi dati e ci diranno: ma siamo in grande difficoltà, a noi non è successo un bel niente di tutto questo, però le analisi invece ci raccontano dell'altro. Quest'anno che tipo di evidenze possiamo raccontare? Allora, se per quest'anno intendiamo il 2015, l'anno che si è appena concluso, il reddito disponibile è continuato ad aumentare, è di un più 0,8%, e aumenterà ancora di più nell'anno in corso, arrivando a 2,4%. Questo è il risultato principale di due effetti: innanzitutto i bassi prezzi del petrolio, che riducono il tasso di inflazione, e poi la crescita dell'occupazione, che in Italia è in salita già dal 2014, un anno in cui c'era ancora la recessione, è continuata a salire anche quest'anno e lo farà nei prossimi. A questi fattori poi si è aggiunta una politica fiscale espansiva, moderatamente espansiva. Ad esempio, quest'anno ci sarà anche l'abolizione delle imposte sulla proprietà, che valgono circa 3 miliardi e mezzo. Quindi queste sono le evidenze più importanti. Voi sottolineate, ho letto qualche anticipazione appunto del vostro rapporto, il concetto di new normal, il nuovo ciclo economico che porterebbe una nuova stabilità, una nuova normalità che segue la crisi. Ad esempio, abituarci a fare i conti con i redditi stabili ma più bassi del 2008 è uno degli effetti di questa nuova normalità, anche se lei parla di un trend di ripresa fra il 2014 e il 2015? Allora, i dati più recenti sul comportamento delle famiglie ci danno un quadro di cambiamenti degli atteggiamenti verso il risparmio. Noi abbiamo utilizzato questo termine coniato per il ciclo economico di new normal a indicare che sia la lunga crisi finanziaria che il cambiamento anche delle politiche di offerta delle banche hanno prodotto dei mutamenti nell'atteggiamento delle famiglie verso la finanza e il risparmio. Questa nuova normalità vuol dire, ad esempio, che la quota di reddito che le famiglie accantoneranno al risparmio sarà più bassa degli anni precedenti alla crisi. Questo perché il reddito disponibile comunque è sceso per molti anni. Questo ha contenuto moltissimo i consumi, soprattutto i consumi di beni perché durevoli. Perché comunque tendevano a voler continuare a risparmiare le famiglie. Esatto. E questi consumi invece torneranno a crescere. Questo però non vuol dire che non si risparmierà. La quota di risparmi aumenterà, come dicevo, e torneranno a dare un contributo più significativo alla crescita della ricchezza, ma resteranno comunque più bassi dei primi anni 2000. Certo. Cuore e denari. Sì, abbiamo reintrodotto questo nuovo blocco con questa canzone perché proprio ad una buono stato di salute dell'industria del risparmio gestito appunto ci riferiamo, perché queste sono le considerazioni che ha fatto ieri Tommaso Corcos, che è il nuovo presidente di Assogestioni, aprendo i lavori del Salone del Risparmio. Ha parlato di tassi di crescita impressionanti che hanno riportato il patrimonio netto di questo mondo ad oltre 1.800 miliardi di euro, una cifra davvero impressionante. Detto questo, ritorniamo un po' al ragionamento che stavamo facendo nella prima parte della trasmissione. Abbiamo introdotto i temi principali del sondaggio di Prometeia, realizzato appunto con GFK Eurisco, il nuovo osservatorio sul risparmio delle famiglie, e abbiamo parlato di questa nuova normalità. Professor Duccio Martelli, cosa comporta sottoporre le condizioni emotive delle persone ad un adeguamento a nuove condizioni che comunque si preannunciano stabili e durature? Vivremo in una condizione di stagnazione economica, comunque di ripresa molto molto modesta ancora a lungo, presumibilmente i tassi di interesse che saranno bassissimi ancora a lungo, quindi fattori che saranno duraturi per un bel po'. Sì, appunto. Purtroppo sì, e quindi anche le condizioni emotive sono appunto gli aspetti forse più critici con cui i nostri risparmiatori, ma poi alla fine tutti noi, dobbiamo confrontarci nell'immediato ma anche nel prossimo futuro. La finanza comportamentale evidenzia e ha evidenziato alcune anomalie sotto questo aspetto, in modo particolare sul comportamento dei risparmiatori in tema di gestione dei risparmi. Un classico cosiddetto bias, anomalia comportamentale, è il cosiddetto status quo, ossia una distorsione che impedisce in maniera di cambiare i nostri comportamenti in tempi stretti, anche se lo scenario economico e le nostre condizioni individuali sono profondamente mutate, certo, e muteranno anche nel prossimo futuro. Diciamo, molto è cambiato, e quindi anche questa nuova definizione di new normal effettivamente deve spingere tutti noi a rivedere i nostri stili di vita, sia in termini di consumo ma anche di risparmio. Certo, io ho lanciato agli ascoltatori una domanda per spingerli ad intervenire questa mattina, chiedendo loro se nell'ultimo anno avessero fatto una importante scelta o di investimento o di disinvestimento, e in relazione a che tipo di fatto nella propria vita, sia perché si fa un investimento, perché magari ci si lancia in un percorso progettuale molto importante, si fa un disinvestimento perché magari è necessario, non lo so, sostenere una spesa improvvisa o perché c'è un imprevisto. Magari con il microfono è più utile sentirti. L'ho tirato su perché volevo bere un po' d'acqua, perché bisogna idratarsi il cervello, se no funziona male. Esatto. E pensavo ad un matrimonio, di una figlia, di un figlio. Non sempre l'imprevisto è teoricamente ha un connotato negativo. A lei invece, professor Martelli, sentendo poi fra un po' cosa risponderanno a questo nostro sondaggio gli ascoltatori, che cosa piacerebbe sapere del comportamento con il denaro e con il risparmio da parte degli amici che ci seguono da casa? Io chiederei ai nostri ascoltatori qual è il loro bisogno prioritario oggi, e se questo bisogno è lo stesso di 7 anni fa o 9 anni fa, quindi prima del 2007, all'inizio della crisi. Lei che tante osservazioni accademiche le fa, che cosa si aspetta che rispondano? Oltre alle osservazioni accademiche, io faccio anche molte osservazioni pratiche e ricevo anche purtroppo richieste di aiuto, e faccio anche consulenza ai consulenti, quindi a professionisti. Quindi cerco hanno bisogno di aiuto, sì, dei risparmiatori. Cerco di aiutarli a capire meglio magari il mondo che è cambiato, e quindi anche i risparmiatori stessi. Secondo me molti di loro diranno che le priorità sono cambiate, sono completamente diverse da quelle che avevamo, non solo a livello pre-crisi, ma un po' dai preconcetti che noi abbiamo in testa. Certo. Mi colpisce molto questa frase che lei ha detto poco fa: faccio consulenza anche ai consulenti per far capire loro che il mondo è cambiato. No, noi abbiamo a che fare anche con consulenti che ancora non hanno ben chiaro cosa ci sta succedendo attorno. Ma mi spieghi un po' che cosa li aiuta? Questa è una condizione secondo me normale, perché è dell'essere umano, ossia non è che i professionisti certamente sono più capaci di noi, ma anche loro possono incorrere in maniera più o meno marcata in alcuni bias, tra i quali anche quello che ho citato in precedenza. Quindi cercare di avere un soggetto esterno che riporta determinate evidenze può essere certamente di aiuto per smuovere quegli, o per rimuovere quei piccoli preconcetti che però purtroppo restano ancora, certo, nella mente di molti di noi. Anche i consulenti devono andare in palestra. Esatto. Tutti non solo a misurarsi con pesi e macchine, ma anche per adattarsi un po' al cambiamento della realtà. Allora, dottoressa Zicchino, torniamo all'osservatorio di Prometeia. Le famiglie continuano a ricercare, purtroppo spesso facendo anche degli errori, delle soluzioni di investimento efficaci e che siano ovviamente pertinenti anche alle necessità proprie della propria famiglia. Si confrontano in un mondo finanziario che non solo cambia molto, molto spesso, nell'ultimo decennio probabilmente ha vissuto dei cambiamenti molto repentini ai quali è stato anche difficile in certi frangenti abituarsi facilmente. Leggiamo dalle anticipazioni dell'osservatorio che nell'ultimo triennio, leggo testualmente, le famiglie hanno investito in strumenti gestiti dagli investitori istituzionali quasi 300 miliardi di euro, una cifra che si riferisce all'Italia? Sì. Ecco, e che sono venuti in larga parte dal decumulo di obbligazioni bancarie, date appunto le minori esigenze di raccolta da parte delle banche, in misura minore di titoli pubblici, la cui redditività, lo sappiamo, è particolarmente compressa. Ci confrontiamo con un mondo di botta a tassi zero e sotto zero, uno scenario che solo fino a una decina d'anni fa era totalmente inimmaginabile. Dopo questo triennio, in questa situazione, che nuova fotografia possiamo scattare? Ma adesso fondi comuni, polizze vita e prodotti previdenziali, quindi strumenti di risparmio gestito, sono arrivati a costituire il 27% del portafoglio delle famiglie, che è il livello più alto degli ultimi 20 anni. Questo ha avvicinato il portafoglio delle famiglie italiane alla struttura che caratterizza gli altri paesi europei, dove è scarsamente presente l'investimento diretto in titoli di debito. Detto questo, nei portafogli delle famiglie italiane questa quota è ancora il 10%, mentre nell'est dell'area euro in media è del 4%. Senta, che cosa hanno comportato nelle scelte dei risparmiatori? Noi Abbiamo raccontato molto spesso dall'inizio dell'anno che cosa significano tutte le novità introdotte dal cosiddetto bail-in, il nuovo sistema, il nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie. Ecco, per esempio, voi potete dire di aver notato già delle reazioni in funzione a questi profondi cambiamenti con i quali per fortuna ancora non ci siamo confrontati, anche se tutti questi vertici a Palazzo Chigi fra i manager del comparto bancario italiano e il governo in queste ultime ore ci hanno anche un pochino agitato. Che ci dice su questo? Allora, la regola del bail-in ovviamente impone ai risparmiatori di fare più attenzione ai rischi dei propri investimenti in titoli bancari. Ad esempio, devono capire che un'obbligazione subordinata rischio maggiore di un'obbligazione senior, ad esempio. Detto questo, possono continuare a investire in obbligazioni subordinate anche in azioni bancarie, ma devono fare attenzione a diversificare questo tipo di investimenti, così come si fa con tutti gli altri titoli di qualunque altra impresa. Però un messaggio rassicurante che voglio dare, dopo la vicenda del bail-in che ha fatto le quattro banche. Le quattro banche risolte. Esatto. Noi abbiamo fatto un'analisi. Ah, se sentiamo il ritorno, lo chiedo alla regia. Abbiamo praticamente il nostro eco. Ecco, adesso speriamo così che abbiano risolto da oggi. Il concetto viene proprio risolto, segnato nella pietra, impresso nella pietra. Ci aveva mandato un attimo in confusione. Quindi dalle nostre analisi, anche in caso di perdite molto pesanti per le banche italiane, siamo arrivati addirittura ad ipotizzare un 3% per tutte le banche, che è una perdita molto importante. Rilevante. I detentori di obbligazioni senior e i depositanti sopra i 100.000 euro possono stare tranquilli, non verrebbero assolutamente coinvolti nel salvataggio delle banche. Questo per l'aggregato delle banche italiane. Professor Martelli, poi magari le faccio completare questo ragionamento. Sì. Dal punto di vista di questo primo quadro che la dottoressa Zecchino ci ha delineato, questo quadro come si delinea con le principali evidenze nel campo della neurofinanza? Allora, la finanza comportamentale descrive il modo in cui noi ci comportiamo effettivamente nella realtà. La neurofinanza spiega perché ci comportiamo appunto in una determinata maniera. Ad esempio, nel caso dello status quo che dicevo prima, che impedisce a tutti noi di cambiare un po' i nostri atteggiamenti, le nostre abitudini passate, questo è dovuto tendenzialmente ad una maggiore attività della corteccia prefrontale mediale e anche dell'insula anteriore, che porta il soggetto a decidere un po' in maniera più emotiva, più di pancia, anziché in maniera diciamo razionale. Il rimpianto infatti di una decisione sbagliata è spesso molto più forte quando siamo noi a cambiare la nostra condizione. Facciamo un semplicissimo esempio. Tendenzialmente siamo portati a mantenere titoli in perdita e continueranno a perdere anche nel prossimo futuro, semplicemente perché speriamo che risalgano prima o poi. Non solo speriamo, ma l'avversione alla perdita è qualcosa di inaccettabile, cioè la perdita è qualcosa di inaccettabile, ne abbiamo proprio avversione. Assolutamente, ma soprattutto è anche il dispiacere di vedere un rimbalzo dopo magari aver venduto un titolo. Esatto, una frustrazione che è non molto si più sopportare. Forte del dispiacere di mantenere questo titolo in portafoglio, perché la perdita, come dicevi è giustamente tu, è il comportamento tipico che studia la finanza comportamentale. Questo dopo il famoso gregge, no? Sì, allora, no, Marco intanto si sta agitando perché ci sta dicendo che fra un minuto dobbiamo dare la linea alla regia perché c'è il giornale radio. Quando siamo in trasferta siamo un po' in una condizione di movimentazione originale, però ci divertiamo lo stesso. Molto, mi piace molto. Non ce la facciamo qua. Dire neanche a sentire Roberto da Milano. Gli chiedo di stare un pochino lì in nostra compagnia a sentire il giornale radio che arriva, poi proseguiremo. Intanto gli mandiamo un libro, considerazioni che così è un'attesa che frutta. Va bene. Poi volevo anche chiedere a Marco e Laura se se ci mettono in collegamento Secondo da Pavia, che sta lamentandosi del fatto che nota che i suoi investimenti non rendono nulla e quindi è un po' scoraggiato da questa situazione. Cuore e denari. Se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Siamo sempre in diretta dal Salone del Risparmio, stiamo continuando a parlare delle scelte di risparmio delle famiglie. Guardiamo al domani, poi interpelleremo anche i nostri ascoltatori che ci vogliono raccontare che scelte hanno fatto in tempi recenti. Naturalmente noi non giudicheremo assolutamente quanto hanno deciso appunto di fare sia Roberto da Milano che Secondo dalla provincia di Pavia, ma magari prenderemo qualche spunto per analizzare il loro comportamento per capire se può essere più o meno diffuso. 800 24 00 24 4. Vi ricordo ancora, pensate alla scelta di investimento e disinvestimento più importante fatta da voi o dalla vostra famiglia nell'ultimo anno, da che cosa è stata determinata? Da una vostra iniziativa, perché avevate un progetto che naturalmente avete un determinato numero di anni davanti a voi entro i quali vorrete raggiungerlo e realizzarlo, oppure avete fatto un disinvestimento in reazione ad un imprevisto? Se volete potete anche scriverci al 349-238-6666. Con noi stamattina il professor Duccio Martelli, professore aggregato di economia degli intermediari finanziari presso l'Università di Perugia e visiting professor alla Harvard University, ma anche Lea Zicchino, partner di Prometeia, responsabile della practice analisi dei mercati degli intermediari finanziari. Abbiamo sentito la canzone degli articolo 31 su Domani. Dottoressa Zicchino, quali sono le vostre proiezioni su come andrà l'economia italiana quest'anno? Gli italiani riusciranno ad aumentare il loro risparmio? Sì, lo abbiamo detto anche all'inizio della trasmissione, gli italiani ce la faranno perché aumenta il reddito disponibile. Citavamo prima quali sono anche i fattori che portano all'aumento del reddito disponibile. E, sì, quello che ci aspettiamo nei prossimi anni è uno scenario di ulteriore riduzione dei titoli di debito nel portafoglio delle famiglie, soprattutto dopo le misure approvate a marzo dalla BCE, che come tutti vedono hanno ridotto la redditività dei titoli di Stato, e queste iniziative mettono poi a disposizione delle banche nuovi fondi a lungo termine che riducono la necessità di fare raccolta con le obbligazioni. Quindi alla fine del 2018 il peso dei titoli di debito, che abbiamo visto essere più alto di quello dell'area euro nei portafogli delle famiglie italiane, sarà molto più in linea con il resto della eurozona e potrà approssimarsi a un terzo del totale degli investimenti delle famiglie. Questo, l'insieme dei prodotti di risparmio gestito che quest'anno ha superato nel 2015, a fine 2015, 1.350 miliardi di euro, potrà continuare a crescere anche se a tassi un po' più bassi, certo, di quelli a cui è cresciuto nel triennio che ci siamo lasciati alle spalle. Allora, vediamo adesso alle persone come possono essere accompagnate in queste scelte di risparmio e di investimento, un grande tema che veramente con il quale sfiniamo forse i nostri ascoltatori, ma ogni volta ci rendiamo conto che non c'è mai abbastanza informazione sulla scelta del consulente adeguato per farsi accompagnare in certi percorsi di vita. Allora, professor Martelli, intanto dal suo punto di vista, come possono i professionisti della finanza aiutare i loro clienti ad aumentare i loro risparmi? Allora, un po' come... e a gestirli bene, ovviamente. Assolutamente. Poi, secondo tema. Un po' come abbiamo detto in precedenza, gli stessi consulenti sono soggetti ad errori o bias di tipo cognitivo e comportamentale. Tuttavia, il loro ruolo è particolarmente più importante oggi rispetto al passato. Oggigiorno inoltre abbiamo degli studi o delle metodologie che derivano proprio dal campo della neurofinanza che permettono ad esempio di aiutare ciascuno di noi, magari in primo luogo anche consulenti che poi a cascata possono poi aiutare a loro volta anche i loro clienti a gestire le emozioni e a gestire la molle di informazioni che oggigiorno arriva da varie fonti. Ad esempio, un esempio molto semplice, o quantomeno relativamente molto semplice, è la cosiddetta tecnica del neurofeedback, dove gli individui possono imparare ad influenzare la propria attività cerebrale, un po' così come accade per i muscoli, e quindi che grazie all'attività fisica si allenano e si sviluppano, anche il nostro cervello può essere allenato e migliorato. So che lei in questo salone metterà alla prova anche i consulenti finanziari. In che modo? Come effettuerà degli esperimenti sui professionisti che si candideranno ad accettare questa sua analisi? Sì, più che un esperimento parlerei più di gioco. Ossia la sessione cosiddetta di neurofeedback è molto simile a quanto tutti noi magari abbiamo provato almeno una volta nella vita quando ci dobbiamo fare un elettrocardiogramma. Quello che farò è far indossare ad un consulente un caschetto con degli elettrodi proprio come quelli che noi mettiamo sul Nicoletta torace. Nicoletta, devi andare a controllare, no, ma che cosa vado, mi combina Martelli? Vado. Che monitorano quindi in tempo reale l'attività cerebrale e forniscono alla persona un feedback immediato sulla prestazione del cervello e sull'area che in quel momento è particolarmente attiva, che si accende, esatto. Perché il problema principale... Pensa se rimane tutto spento, io non... No, la performance riuscirà... Ad esempio, dello sviluppo di un muscolo per noi è semplice, perché basta guardarci nel giro di pochi giorni, poche settimane di palestra e il tutto, magari riusciamo a capire se magari abbiamo perso peso, se la massa muscolare è aumentata, più difficile ovviamente guardare al nostro interno. Certo. Quindi ci sono delle tecniche che permettono, tramite l'utilizzo di un software, di un PC, di dare un feedback visivo della capacità e dell'area che si... Sì. No, stavo pensando, dottoressa Zicchino, ne avrete da studiare nei prossimi anni con Prometeia, con tutto quello che ci stanno compilando anche gli esperti di neurofinanza. Allora, noi stiamo andando verso la chiusura della prima parte, pescherei questi due ascoltatori perché li ho fatti aspettare anche fin troppo. Roberto da Milano, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Allora, buongiorno, grazie di esistere, siete un faro nella nebbia, appunto. Mamma mia. Bravo, ottimo. Che carino. Tutte le mattine vi seguo. Dunque, un noi faro abbiamo... nella nebbia, adesso poi che la nebbia va via comunque cambierà. Esatto, adesso va per le stelle, dunque, il firmamento. Quarantennale sulle obbligazioni, soprattutto mia moglie aveva cominciato subito appena sposati ad armeggiare quando i bot rendevano. Quest'anno avevamo... L'immagine della signora, la moglie di Roberto, che armeggia con i bot, è veramente un'immagine suggestiva. Intrigante. E affascinante. Sì, quarantennale, io ho 72 anni, mia moglie ne ha 69, abbiamo cominciato subito. Lei da buona formica brianzola, quindi maneggiava tutte queste cose. Dunque, quest'anno semplicemente avevamo due conti di deposito in scadenza e alla scadenza li hanno poi accreditati sul conto corrente, che è salito in un modo un po'... diciamo che ci ha spaventato un po' con i belli... cosa abbiamo fatto... Ci siamo dati da fare per, diciamo, diversifichiamo, perché abbiamo in portafoglio i BTP. E allora ha detto, sentiamo le poste. Dopo due colloqui con funzionari siamo scappati inorriditi dalla pochezza, dall'ignoranza e dall'infrastruttura. È un grande tema quello, Roberto, non mi faccia più fare una querela da qualcuno, ma insomma sulla consulenza e gli sportelli postali. So che stanno facendo un grande lavoro per prepararli, però è dura. Chiusa parentesi. Quindi che scelte ha fatto quest'anno, Roberto? Ha disinvestito un conto di deposito ed è passato a far che cosa? Dunque, abbiamo investito in obbligazioni della Volkswagen tedesca, perché io ho preso la palla al balzo, sono uno che cerco parecchio in internet, ho visto che per l'ondata che hanno subito i prezzi erano scesi molto sotto alla pari, no? E quindi sono obbligazioni perpetual, hanno un bel rendimento 4,6,25 una, 5,25 l'altra, sotto alla pari, le abbiamo acquistate, abbiamo risparmiato un mucchio di soldi all'acquisto. Adesso ogni 6 mesi ci danno il cedolone. Roberto, allora quello che mi colpisce è che lei è pienamente consapevole di quello che ha fatto, però passare dal conto di deposito, che quanto più di tranquillo esiste in questo momento e ha appunto un rendimento molto, molto contenuto, ad un'emissione obbligazionaria invece... non dico pericolosa perché 4-5%, però ai tassi attuali del mercato obbligazionario può essere, anche alla luce delle vicende di Volkswagen, particolarmente aggressivo questo investimento. Lei è passato proprio da una fase ad un'altra della sua vita, di questo è consapevole o no? Perché Volkswagen è un pilastro in Germania, è l'azienda automotive che traina praticamente un po' tutta quanta l'industria. Sì, hanno pagato duramente le conseguenze dello scandalo famoso, però. Allora, Roberto, sentiamo un po', dobbiamo passare al diabete. Professor Martelli, che cosa ci racconta il caso di Roberto? Ma anzitutto conferma una cosa che tu hai capito molto prima magari di alcuni risparmiatori italiani e che io già conoscevo, ossia che sono le donne che alla fine in casa gestiscono il denaro. Non si muove foglia che lei non voglia, abbiamo detto sempre. L'altro aspetto è che per me non ci sono problemi al fatto che un risparmiatore / investitore decida di cambiare anche profilo di rischio, come si usa a dire in termini tecnici. L'importante è la consapevolezza appunto sul rischio che si va ad assumere questa persona. Perché il fatto di dire che alcune società, alcune aziende sono state pilastri di determinati paesi può essere particolarmente rischioso. Anche qui in Italia, nel recentissimo passato, ci sono stati molti esempi di imprese ritenute invincibili e poi purtroppo hanno registrato performance negative fino ad arrivare alla chiusura. Anche fino al giorno prima il fallimento di Lehman Brothers, nessuno avrebbe mai scommesso che avrebbero lasciato fallire una delle più grandi banche d'affari della storia americana. In generale nessun titolo è sbagliato, nessuna strategia è sbagliata. L'importante è essere consapevoli del rischio, perché noi siamo sempre portati a guardare il rendimento, ma oggi in questa nuova fase di nuova normalità. Esatto, che anche quella dei tassi zero non riusciamo a ascoltare l'ascoltatore appunto di Pavia, ma il tema è questo. È non aspettatevi stesso. Che vi vendano la gallina dalle uova d'oro, l'intermediario finanziario non ha questa oggi, possibilità di fare queste magie. Oggi pasti gratis, come abbiamo sempre detto, non esistono più, oggi men che mai. Quindi è possibile proteggere il capitale solo se siamo disposti o a pagare e quindi assicurandoci, comprando protezione, oppure a rischiare qualcosa e quindi creare un portafoglio diversificato dove ovviamente in base anche al profilo di rischio la diversificazione non comporti un rischio elevato. Grazie professor Martelli, grazie anche a Lea Zichino per essere stati con noi. Il sondaggio che abbiamo messo su Twitter ha questo risultato: nell'ultimo anno di vita chi ha fatto una scelta di investimento o disinvestimento, al 75% l'ha fatto per un progetto di vita, al 25% per rispondere ad un imprevisto. So che ti è piaciuto tanto lo status quo. Lo status quo mi è piaciuto, professor Martelli, perché anche quando siamo di fronte a dei valori, dei parametri della nostra salute, facciamo che sappiamo per certo che potrebbero essere cambiati modificando appena il nostro stile di vita, non ce la facciamo. E quindi su questo dobbiamo investire, aumentare la consapevolezza partendo da un'idea molto semplice, che sono i piccoli cambiamenti che fanno la differenza. Passetto dopo passetto, alla fine di un percorso ci troviamo, no, a considerare tanti risultati. Però io, Deborah, dopo tutto questo allenamento che i tuoi ospiti hanno fatto fare ai nostri neuroni, che saranno stremati ma molto soddisfatti, suggerirei un esercizio di stretching. Si fa così in palestra, no? Dopo, tu che sei una frequentatrice abituale, lo stretching sappiamo che è molto importante. Allora, stuzzicate un po' la vostra memoria, pensate all'ultima volta che avete misurato la glicemia, chiamateci, diteci il valore che era riportato sui vostri esami del sangue. Anche i numeri, lo sappiamo bene, aiutano a fare prevenzione, e qui al Salone del Risparmio vogliamo proprio sottolineare che la prevenzione è il miglior investimento per la nostra salute, quello più redditizio, e soprattutto anche per quella del nostro Servizio Sanitario Nazionale.